Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1870, nuovo governo Lanza, Italia in bilico tra tasse e rivolte repubblicane. La nascita del principe Vittorio Emanuele, primogenito dell'erede al trono principe Umberto e della principessa Margherita, è stata molto celebrata, in particolare a Napoli, dove la reale coppia si è trasferita lo scorso anno. Ma nei palazzi del governo i pensieri sono tutti rivolti altrove, a Roma, certo, ma anche e soprattutto alle finanze. L'idea che l'Italia abbia bisogno innanzitutto di conti in ordine anima in particolare il nuovo presidente del Consiglio, il piemontese di Casale Monferrato Giovanni Lanza, già presidente della Camera. Luigi Menabrea alla fine è caduto, il suo terzo governo successivo non ha retto a un nuovo voto contrario con cui la Camera ha preso le distanze dalla sua gestione. Il 19 novembre il candidato governativo alla presidenza della Camera, Alari, è stato battuto proprio da Lanza, presentato per un rinnovo del mandato. Menabrea ha dovuto dimettersi e a sostituirlo è stato Lanza, dunque, dopo una serie di trattative e di tentativi di altri esponenti. Il nuovo presidente ha puntato sulla solidità e sulla prudenza, una accordo stratega come Emilio Visconti Venosta agli esteri, ma soprattutto un duro come Quintino Sella che si prende le finanze e la gestione della partita più difficile. Il 15 dicembre Lanza ha subito annunciato dure misure economiche. Ha chiesto l'esercizio provvisorio del bilancio e la facoltà di riscuotere, come meglio riteneva, l'imposta sul macinato. Poi c'è stata una lunga pausa di vacanze natalizie e il 10 e 11 marzo è toccato a Sella esporre la situazione finanziaria e i correttivi. Riduzione delle spese dell'esercito e della marina, sospensione dei lavori pubblici meno urgenti, riduzione delle spese in tutti i ministeri, aumenti sulla tassa del macinato, sul dazio consumo, sulla tassa di ricchezza mobile, sulle tasse sui fabbricati, sulla tassa di registro e di bollo, sulle tariffe ferroviarie, quindi imposizione di una nuova tassa sugli alcolici e passaggio alle province delle spese per l'istruzione secondaria. Lo hanno chiamato l'omnibus finanziario. Il clima alla Camera è agitato e le resistenze sono tante. I tagli militari scontentano destra e sinistra, le ristrettezze gestionali non piacciono alle burocrazie, le tasse colpiscono i poveri. Il malcontento cresce, ma nessuno dubita che alla fine il provvedimento passerà, perché di alternative proprio non ce n'è. Alla fine la maggioranza voterà compatta perché teme si possa realizzare quello che si è visto il 23 e 24 marzo, quando Mazzini ha lanciato la sua offensiva repubblicana e rivoluzionaria. Nella notte a Pavia circa 40 mazziniani, fidandosi degli accordi presi con alcuni sottufficiali e soldati, hanno assalito la caserma San Francesco, ma i militari hanno dato l'allarme e hanno aperto il fuoco. La rivolta è stata domata, mentre altre ne scoppiavano brevemente a Piacenza, Bologna, Ravenna, Forlì, Massa, Pisa, Genova, Lucca, Reggio Calabria e Catanzaro. L'autorità ha reagito con durezza e i repubblicani hanno perso la partita. Intanto il destino di Roma, ormai evidente, è molto più legato agli equilibri internazionali che ai colpi di mano. La tensione tra Francia e Prussia sta crescendo e potrebbe favorire l'Italia. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.